Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Rialza la testa, qualcuno la mette così. Fatto sta che in concomitanza con la riapertura delle scuole la Campania impone l'obbligo di mascherina all'aperto, così come avviene a Foggia e Latina, mentre il Lazio nel suo complesso ci sta pensando. Passate le regionali e il referendum, mentre i partiti e le coalizioni sono alle prese con le loro discussioni interne, e sotto i riflettori c'è la Lega per le inchieste giudiziarie sul presidente della regione Lombardia, per quelle sui soldi del partito, per quella su Salvini in merito a Nave Gregoretti, sulla cui questione ha presentato Salvini la sua memoria difensiva. Come diciamo, passate le regionali e il referendum, è al Covid che si torna a guardare. Da questa parte delle Alpi e dall'altra in Francia, dove i casi registrati ieri sono 16.000, mentre grandi preoccupazioni riguardano anche la Spagna e l'Inghilterra. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Simone Spezia. Sono le 6:31 minuti e 45 secondi, è venerdì 25 settembre, care ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata a Simone Spezia, ci siamo. Con Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, il resto della redazione, Gloria Guerrera e Giorgio De Luca. E i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, la squadra di 24 Mattino. E voi, che ne siete una componente fondamentale. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. Ve lo devo dire. Non voglio menare gramo, per carità, ma quando vedo gli articoli del Financial Times, di Foreign Policy e di tutto il resto che dicono che siamo bravissimi a gestire Covid-19, mi ricordo degli articoli che scrivevamo noi in marzo sul modello Israele, che adesso è tornato in lockdown per 3 settimane. Occhio. Non voglio menare gramo, ma occhio! Continuiamo a mettere le mascherine, continuiamo a fare i bravi, ad essere liberi con serietà, come ha detto ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una sorta di risposta al Premier britannico Boris Johnson. Della vicenda inglese abbiamo parlato ieri. Io non so che timori abbiate voi, se volete ditelo al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio. E non so se condividiate le parole di Mattarella, anche noi italiani amiamo la libertà, ma abbiamo a cuore anche la serietà. Guardate che è un po' un paradosso questa cosa che diamo lezioni agli inglesi su questo, sull'ordine, sulla capacità di essere appunto ordinati. Il Covid che torna anche nel tampone al quale è risultato positivo Zlatan Ibrahimovic, che ormai è un po' quasi una sorta di macchietta di se stesso, cioè dà una rappresentazione di se stesso di questo tipo, per cui scrive: Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi, brutta idea. E a proposito di calcio, in tutto ciò le regioni varano il protocollo per riaprire gli stadi. Io non lo so. Capienza fino al 25%, che non è tanto, come diciamo, la questione di come stai dentro lo stadio, ma come ci arrivi. I dati italiani, dice il ministro Speranza, sono migliori di altri, e questo lo vediamo, Oggi i dati italiani sono dati migliori rispetto a tanti altri paesi europei. Io penso che dobbiamo monitorare, come stiamo facendo ora dopo ora, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, siamo dentro la sfida assolutamente non è ancora vinta. e però i comportamenti corretti delle persone, le misure del governo nazionale, dei governi regionali ci hanno portato ad una situazione che è diversa da quella di tanti altri paesi europei. Virus che comunque, sottolinea Speranza, e ce ne siamo accorti, circola in Europa. A livello europeo vediamo una tendenza che continua ad essere quella di una crescita della circolazione del virus e non possiamo pensare che il virus circoli in alcuni paesi e altri ne siano totalmente estranei, sarebbe sbagliato avere una valutazione di questa natura. Per questo io continuo ad insistere sulle norme, sui comportamenti, sul rigore, su una linea di grande attenzione, di grande precauzione. Così, ospite ieri, se non vado errato, di 8:30, la trasmissione di Lilli Gruber, Antonella Viola, immunologa, con delle parole decisamente preoccupanti. Però c'è un aumento lento e costante. Il punto è che noi oggi appunto abbiamo un numero di casi che ci permette ancora di non avere una situazione di emergenza a livello sanitario. Abbiamo solo il 4% circa dei posti in terapia intensiva occupati, quindi non siamo in una situazione di emergenza sanitaria. Però siamo in una situazione di estrema attenzione, perché se l'aumento continua così, c'è stato più o meno un aumento del 40% a settimana ultimamente, se continuasse così i numeri tra un mese raggiungiamo i numeri della Francia, per esempio. Capito? Il vice ministro Sileri. Avremo sicuramente tante mareggiate, anziché una seconda ondata, come abbiamo vissuto quella di febbraio e marzo del 2020, faccio fatica a credere che avremo 1000 morti al giorno, perché significherebbe dimenticarci delle misure di precauzione che quotidianamente quasi tutti noi attuiamo. È chiaro che dovrebbero attuarla sempre più persone e ovunque. Scrive un ascoltatore, Giuliano, dice: il Covid sta a Ibra come il piatto di spaghetti a sordi, ve lo ricordate? Quello di un americano a Roma. Te distruggo. E qua si parla di riaprire gli stadi, che vi devo dire? La priorità è la scuola, la priorità non sono gli stadi, per esempio, la priorità è la scuola. Noi oggi siamo alla vigilia di un giorno importante per la Puglia e io penso che dobbiamo mettere tutte le energie che abbiamo sulle cose fondamentali, la scuola lo è sicuramente. Saluto Elisa Calessi, giornalista, inviata di Porta a Porta, collaboratrice di Libero. Elisa, buongiorno, un nuovo acquisto per 24 Mattino. Chissà quante volte ti vorrai svegliare a quest'ora, però, sì. però ci proveremo qualche volta. Vedremo. Senti Elisa, come la vedi questa storia degli stadi? È un po' surreale, devo dirti, per come la vedo io questo dibattito. Anche le regioni che, secondo me, qua fanno anche un piccolo passo falso, no? Questo protocollo sul 25% proprio nel momento nel quale si stanno rimponendo le mascherine anche all'aperto. Sì, mi sembra che, come si era già visto, il business, diciamo, prevale su altri criteri, perché questa è la verità, insomma. Cioè, siamo stati 7 mesi senza scuola, però adesso si riaprono gli stadi, cioè molte scuole richiudono. Ci sono milioni di ragazzi che ancora devono fare la scuola a distanza, però riaprono gli stadi e, come dicevi tu, siamo in una situazione di crescita in campagna. Adesso la mascherina sarà obbligatoria anche all'aperto e così anche a Genova. Sì, mi sembra una cosa che è dettata da altri criteri. Sì, un po' strana, quasi la volontà di far contento qualcuno, non solamente la società di calcio, ma presumibilmente ovviamente anche i tifosi. Tra l'altro, oggi sul Sole 24 Ore, se non vado errato, ci sono dei dati proprio sulle scuole. Colpite finora 400 scuole e 75 sono state chiuse. Questi sono i dati che vengono forniti oggi appunto dal Sole 24 Ore. Questo per dare un po' la misura di quello che sta succedendo. Poi chiaramente spesso sono misure precauzionali, cioè trovi un positivo, chiudi tutta la scuola perché evidentemente non sei in grado di mantenerla in sicurezza, e però il segnale è questo, cioè la sensazione che qualcosa si stia muovendo su questo fronte. Evidentemente c'è. In tutto ciò, cara Elisa, i partiti e le coalizioni sono prese in tutt'altre questioni, stanno occupando di tutt'altro. Il Movimento 5 Stelle si sta macerando nella scelta di come andare avanti, di che leader o che tipo di leadership addirittura scegliere, e dall'altra parte il centrodestra ragiona un po' sul ruolo di Salvini. Sì, ieri c'è stato questo psicodramma, questa riunione psicodramma del Movimento 5 Stelle, che mi colpiva per questa cosa, cioè nello stesso momento, mentre si riuniva questa assemblea, i volti principali del Movimento 5 Stelle, Di Maio, Patuanelli, Fraccaro, erano a Palazzo Chigi e non ci sono proprio stati all'assemblea, cioè i capi reali, i volti, diciamo, mediatici, i volti del potere erano a Palazzo Chigi, mentre si scannavano i parlamentari sul che cosa fare. E peraltro l'altro paradosso è che si è decisa, cioè Crimino, il reggente, ha proposto tre possibilità su come andare avanti adesso, e si è proposta la cosa più tradizionale, più da partito, cioè gli stati generali, cioè lui ha detto un congresso, cioè lo chiamano Elisa, li chiamano stati generali, ma è un congresso come quello dei partiti, che inizia con le assemblee provinciali, con i delegati regionali, cioè proprio un congresso stile Partito Democratico, stile partito di una volta. E quindi tutto questo dice che c'è un dilemma irrisolto che è nel DNA stesso del Movimento 5 Stelle, che si dice movimento, non partito, ma che è un partito, è dentro le istituzioni, cioè il paradosso del fatto che ci sono 300 parlamentari e Grillo, che ha fondato questo movimento, che non vuole essere un partito ma che è un partito, e nelle stesse ore diceva il Parlamento non ha senso, cioè devono decidere che cosa vogliono essere. Questo è il punto. Sentiamo un Buffagni, va. Sentiamo Buffagni, ce l'hai Peter, vai. Evidentemente se gli italiani alle europee ti danno un responso, l'anno dopo te ne danno uno sulla stessa riga, insomma credo che forse sia il caso di invertire il trend, che dice, appunto. Però vediamo, sono convinto che serva un rimbalzo, no? Tecnicamente si chiama. La mette sul borsistico, Buffagni, dice serve un rimbalzo. Dall'altra parte si addensa qualche tensione intorno a Matteo Salvini. Su vari fronti, c'è l'inchiesta giudiziaria, quella sui soldi della Lega, che traccia 900.000 euro che vanno al comune di Bondeno. Perché è importante il comune di Bondeno? Perché è il comune del quale è stato sindaco Alan Fabbri, che adesso è sindaco di Ferrara, uomo forte di Salvini. Però quei soldi sarebbero stati poi utilizzati, soldi del partito arrivati al comune sarebbero stati utilizzati per costruire una scuola. C'è tutta la questione di nave Gregoretti. Ieri Salvini ha presentato la memoria difensiva, ma a quanto pare, racconta il quotidiano La Repubblica, ci sarebbe anche la procura di Palermo intenzionata ad indagarlo per la vicenda Open Arms in questo caso. Ieri Salvini ha presentato la memoria difensiva invece su quell'altra vicenda, sulla vicenda di nave Gregoretti. E poi c'è tutta la questione interna al centrodestra. Sentiamo la voce di Toti, va. Tutti gli alleati devono essere concentrati sulla coalizione più che sui propri partiti, perché è con la coalizione che si vince, e che Matteo in prima persona, cosa che peraltro gli dico da molto tempo, a mio modo di vedere deve diventare il vero capo della coalizione e non il segretario della Lega. Certo, segretario della Lega, per vincere le elezioni politiche abbiamo bisogno di un candidato premier che sia sentito come espressione di tutti i partiti che la compongono, e magari anche di qualcuno che si può aggiungere. Elisa, da una parte hai un Toti che gli chiede di diventare capo della coalizione, dall'altra hai un Raffaele Fitto che lo accusa di non averlo sostenuto in campagna elettorale in Puglia, e poi all'interno sembra risuonare un po' la stessa cosa che abbiamo sentito, gli ascoltatori che hanno sentito ieri la trasmissione alle 8.35 sanno che abbiamo avuto ospite il Presidente della Camera, Roberto Fico, il quale ha detto nel Movimento 5 Stelle c'è stato un problema di verticismo un po' spinto, una gestione poco collegiale, e all'interno del partito è un po' l'accusa che viene fatta a Salvini, Elisa, in questo momento. Sì, allora è evidente che Salvini sta vivendo un momento di difficoltà, secondo me è dovuto innanzitutto ai mesi del coronavirus, che di fatto hanno impedito a Salvini di fare quello che gli riesce meglio, cioè lui è un leader fisico che fa i selfie, cioè tutta la sua capacità comunicativa si basava anche su questa capacità di stare dentro il popolo. Ovviamente questo non l'ha potuto fare, è chiaro che il suo modo di comunicare in questo periodo è stato molto penalizzato, oltre a ovviamente scelte sbagliate e a un modo di porsi che probabilmente non incrocia in questo momento il sentire più diffuso, perché adesso in questo momento la gente ha bisogno di essere rassicurata, si identifica in persone che hanno in mano la situazione, come si è visto anche dalle elezioni regionali. E poi c'è un problema di leadership del centrodestra, perché è evidente che il successo della Meloni in qualche modo lo insidia in discussione la leadership del centrodestra. Aggiungo un terzo fattore: Salvini è un grande solista, ma non è nelle sue corde tanto la capacità di far squadra, e questo è un altro limite. Altro punto, traffico. Mattino. Questa dimensione della politica è destinata a finire, e il lavoro che va fatto non sono i liberali panda, a parte che sto fatto che i liberali si danno sempre dei pirla da solo dicendo che sono dei panda è una delle ragioni perché sono dei panda, ma non è la questione dei liberali, mica i liberali, la questione è che qui non c'è mai un'agenda pragmatica. Oh, lo adoro Calenda certe volte, eh? La storia dei liberali panda che si dicono da soli che sono dei panda e quindi rimangono dei panda e raccolgono sempre quel 2, quel 3%. Va bene. Veniamo alle questioni Covid, poi più avanti, ve lo dico nel corso della trasmissione, alle 8.35 avremo Matteo Salvini appunto. Alle 8.45 sarà nostra ospite Sandra Zampa, la sottosegretaria alla salute, per affrontare proprio i temi che riguardano più strettamente l'Italia. Però se ieri vi abbiamo portato in Gran Bretagna e di Francia abbiamo parlato diffusamente nei giorni scorsi, oggi vogliamo andare in Spagna. Lo facciamo con Benedetto Yelpo, che è chirurgo generale all'Hospital del Mar a Barcellona. Yelpo, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, il numero di contagi giornaliero in Spagna è intorno ai 10.000 in questo momento, se non vado errato. Ci sono una serie di lockdown che stanno scattando a livello locale. Mi conferma tutto questo? Il quadro è più o meno questo. Il livello di preoccupazione qual è? Dalle vostre parti e negli ospedali? Beh, effettivamente sì, il numero è corretto, quello dei 10.000 in Spagna. Se non mi sbaglio la Spagna adesso in questo momento in Europa, con il numero più alto. Molto simile alla Francia, sì. Tra Francia, Inghilterra e Spagna si giocano il primo posto. Ed effettivamente sì, ci sono dei lockdown, ma che non sono dei veri e propri lockdown, così come sono stati nella prima ondata, se così vogliamo definire, ma soltanto in alcuni quartieri. C'è un lockdown sopra, ci sono delle restrizioni e si cerca insomma di controllare adesso i focolai. Devo dire la verità, un po' in ritardo, perché il problema è stato proprio questo, quello dei focolai, che se l'Italia, vuol dire che deve essere elogiato in questo, per controllare molto meglio la Spagna, non è riuscita a fare. Non lo dica Yelpo, non lo dica, per carità. Bisogna dirlo. Ho capito, però io temo che ci rilassiamo nel momento in cui diciamo quanto siamo stati bravi, via tutte le mascherine, tutti in giro lisci e tranquilli. No, meglio di no. Ma io ho anche tre figli, insomma, il rinforzo positivo è importante, si tratta di di non accontentarsi logicamente, però il risultato positivo bisogna darlo. L'Italia è stata molto brava, così come è stata sì. criticata molto nella prima linea, adesso bisogna elogiarla. Sì, è giusto che sia così. Dalle vostre parti, in Catalogna mi sembra che la situazione sia un po' più tranquilla. Sì, i numeri sono sempre molto alti, non sono come quelli italiani, però diciamo che la Catalogna effettivamente ha fatto qualcosa di molto simile anche all'Italia. Qui vedete che c'è un federalismo molto più importante che l'Italia, quindi ogni regione si gestisce come può. E la gestione della Catalogna è stata proprio quella della ricerca dei focolai, di controllarli, e quindi il tracciamento ha dato questi risultati. Poi c'è anche un'altra differenza rispetto all'Italia, che nella stessa Italia si è criticata molto a livello politico. Quello dello stato d'allarme. In Italia esiste ancora lo stato d'allarme, praticamente è l'unico paese, mi sembra, in Europa dove ci sia ancora. In Spagna non c'è, ad esempio, quindi ogni regione si è organizzata come ha potuto, c'è chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio. E questo è uno dei motivi per cui effettivamente il numero in Spagna e in altri paesi come in Francia e in Inghilterra è molto, molto più alto. Quindi la differenza tra le gestioni locali ha pesato, secondo lei, Yelpo? Sì, ci sono vari motivi, questo è uno di quelli effettivamente. Poi c'è anche il fatto che comunque l'Italia è stato il primo paese in Europa con il lockdown e è stato anche il paese con un periodo molto prolungato, molto lungo di chiusura. E poi quando hanno riaperto tutti gli altri paesi tutti insieme, logicamente. Quindi l'Italia comunque ha avuto questo vantaggio di riaprire in maniera graduale con un numero più basso rispetto invece magari alla Spagna, dove si è riaperto perché bisognava aprire comunque perché sennò la crisi economica si faceva sentire troppo, e quando si è riaperto comunque con un numero alto. E poi è anche vero che il suo numero alto è rimasto più o meno costante, è in aumento, tendenza in aumento, così come anche l'Italia, però insomma è costante, non è aumentato poi così tanto, è rimasto alto senza avere, diciamo, una curva in aumento esponenziale. Vedremo come andranno le cose in Spagna. Grazie per essere stato con noi, a Benedetto Yelpo, e le auguriamo ovviamente buon lavoro. A proposito di Covid, a proposito di Gran Bretagna, ieri è tornato a farsi sentire Flavio Briatore, l'uomo più odiato o più amato d'Italia a questo punto, con una battuta nemmeno tanto ben riuscita, sentiamo. In Inghilterra è successo di tutto, per cui i ristoranti adesso apriranno fino alle 10, prima eravamo fino alle 2, per cui stanno cancellando tutti gli eventi, e credo che voglia spostare anche Natale. Natale vogliono spostarlo a febbraio, credo che Natale quest'anno sarà i primi di febbraio, speriamo che a quel punto lì sia tutto finito. Vogliono spostare il Natale. Vabbè, poi fai complimenti all'Italia, lockdown e post-lockdown gestito meglio. Cara Elisa, per chiudere, la mia impressione è questa, è che ci siamo e ci concentreremo molto, l'azione politica si concentrerà molto sul tema del recovery fund, sulla prossima manovra, su quello che succede dal punto di vista economico. Basti agli ascoltatori l'apertura del Messaggero di oggi, che ci racconta che 500.000 di lavoratori aspetta ancora la cassa integrazione, per dare la misura di quello che succede. Però l'impressione, appunto, è che la gestione del virus si stia riaffacciando e diventi nuovamente un elemento dirimente dal punto di vista politico. Che dici? Ma sì, perché se sarà la cosa che impatterà di più sulla vita delle persone, basta pensare, sarà perché io ho un figlio, quindi sento queste cose, cioè sì. Come è probabile, come stiamo già vedendo, ci saranno mini lockdown nelle scuole, ci porrà il problema del genitore che deve stare a casa, come fa? Non sempre sarà facile aprire immediatamente lo smart working e le partite IVA e i lavoratori dipendenti, e se uno ha un bar come fa? Cioè sono tutti problemi che il problema del coronavirus impatterà fortemente sulla vita delle persone, che chiederanno ovviamente al governo, alla politica, una risposta. Se non arriva, saranno guai grossi. Vedremo, cara Elisa Calessi, alla prossima. Volessi mai tornare a quest'ora del mattino, inviata di Porta a Porta, collaboratrice di Libero. Ciao Elisa, buona giornata. Buona giornata, ciao. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Oh, c'è un sacco di roba oggi, a partire da questa storia della cassa integrazione, appunto ancora non è arrivata. Tra l'altro ditemelo, ogni tanto ve lo chiedo, se c'è qualcuno di voi che sta ancora aspettando i soldi della cassa e non li ha ricevuti, ce lo racconti via WhatsApp audio se volete. GR24 tra poco. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.